dire, poco fa mi sono spostato di canale, in effetti anche io quando metto al minimo la potenza, cioè tutto regolato indietro, non esce niente finché non parlo, non c'è nessun pallino, nessun LED che si illumina, capito, sul display. Solo quando parlo, diciamo, aumenta il livello dei LED che si accende. Sì, come a me. Allora, che abbasso. Giulio. Praticamente Carlo i menu ce li ha occulti, molte funzioni sono occultate. Allora, per inserire l'eco, il bip, Carlo, tu tieni premuta la manopola di canali e vedrai comparire il menu, scorri con la manopola dei canali alla voce che vuoi, in questo caso ecco, clicchi di nuovo con la manopola dei canali e poi seleziona on e off e confermi sempre cliccando con la manopola dei canali. E così per togliere il bip o selezionarlo. E poi gli altri menu si attivano in due altri modi diversi, ecco quello che dicevo io, li hanno raggruppati in modo un po', forse non era possibile fare un menu unico, ecco, questo è l'eco, però la regolazione dell'eco la puoi fare esclusivamente dall'interno dell'apparato. All'interno ci sono due trimmer dove c'è la velocità dell'eco e la durata dell'eco, cioè il numero di ripetizioni che può fare. Io adesso non riesco bene a sentirmi, l'ho messo al minimo in modo da essere ben poco invasivo. Mi sono impapinato, vai Carlo. Guarda se adesso ce l'ha al minimo di effetto eco. Confermo, attivato, hai visto com'è? Ma dopo i canali c'hai il bip, l'eco e altre funzioni lì, con quel modo di menu, dai. Sì, praticamente c'è il basso menu che ha delle funzioni, invece premendo la manopola, diciamo, canali in fondo, push, c'è l'altro menu, sì, però non mi ero accorto che c'era lì la regolazione, ecco, capito, pensavo fosse, come diceva Giulio, magari nascosta in un altro tasto, invece è sempre là, le hanno suddivise in due parti, una a sinistra e l'altra a destra. Sì, la stessa funzione di così premendo ce l'hai nel clarifier, perlomeno in questo mio, poi nel tuo suppongo che sia uguale, forse utilizzando la manopola dei canali, poi ce lo chiarirà questo particolare Marco, perché potessi, per dire, non so, tanto per fare un esempio, 27.075.00, che è la frequenza reale, puoi fare 25.075.01.02.03.04 e così via, sino a 10, 100, anche un canale postale, eccetera, eccetera, o Carlo, anche con la funzione, premendo il clarifier. Sì, no, io invece quella funzione ce l'ho non con quel tasto clarifier, ma diciamo col manopolone, premendo push, capito? Cioè se lo premi, se lo giri ti cambia i canali, se invece lo premi ti cambia, insomma, tutte le frequenze. Sì, infatti, quello serve per la centratura quando va in banda, no? Per la centratura serve quello. E poi c'è anche l'altra funzione, un giorno vediamo di provare il Dual Watch e vediamo di parlare in un canale e ascoltare nell'altro, vediamo un po' se riusciamo a trovare la combinazione giusta, ma non è adesso il momento, lo facciamo un altro momento. Vai Marco. Intanto scusate che mi ero assentato, no, diceva Carlo, c'è una terza voce di menu, non so se mi ha copiato perché qua ho toccato i canali volontariamente. Premendo brevemente menu e poi la manopola dei canali, c'è il terzo tipo di menu e sono voci che si usano poco o niente. Però se vuoi verificare, premi brevemente il menu, compare una F sul display e premi manopola i canali, lì c'hai altre poche voci, mi pare 4 o 5 voci di menu, però sono funzioni che noi non usiamo, sono per altri usi. Sì, se premo menu mi appare F, dopodiché però se giro i canali scompare. Sì, che sia forse leggermente diverso dal mio. Qua facevo menu brevemente, poi canali e compariva una terza voce di menu. Forse nel tuo li hanno raggruppati meglio. Questa è la prima versione, credo che ne abbiano fatte una, due, tre, forse anche quattro. Va bene. Vediamo se è rientrato Luca Flipper, se qualcuno vuole entrare. Comunque Marco, questa è la versione V4. Il mio N, o il numero e segue N, o Carlo? Sì, ma come diceva Marco, nel 2009 hanno fatto la versione 1, 2, 3 e 4, questa è la versione 4, l'ultima dovrebbe essere. Sì, avevo letto qualcosa, Ia. Giulio, ti volevo dire, comunque rispetto al tuo è diverso, diciamo è abbastanza diverso, mentre diciamo tu hai quasi tutte le funzioni con manopole e tastini in alto a sinistra, qua devi andare proprio in uno specifico menu, è un po' più complicato se vogliamo, è meno intuitivo, però è comunque una bella radio. Ho sentito un bip, chi è? Doppio Room? Sì, buonasera a tutti. Ciao Gianni, compagni di Giulio, Carlo, che stava provando così varie funzioni dell'apparato. E ok, riprendete che mi stacco un attimino. E vai Carlo. Ciao Gianni, ben sentito. Vai Giulio. Cosa c'è? Il checco. Ciao Gianni, ben entrato, avanti. Sono andato a salutare perché fra poco devo andare via e devo portare giù il cane, però ho detto va, ho provato ad accendere, stavo cantando sino adesso, quindi adesso ho acceso, ho detto vediamo un po' se c'è gente, entro a salutare. E alle 7 devo portare il cane, dai, perché poi devo fare cose, già lo metto in macchina dopo. Ok, ma Gianni, va bene. Se siamo ancora in frequenza già ti rispondiamo, non c'è problema. Sì, no, stavamo facendo le prove, le comparazioni fra il mio e quello di Carlo, stavamo facendo e diciamo che sono simili, perlomeno stando a quello che ci hanno detto Gravino e anche gli altri amici che c'erano prima, dai, e anche Marco tra l'altro. Per cui va bene così, siamo contenti tutti, vai ancora Gianni. Innovazione questo apparecchio che hai comprato Carlo, oppure sono apparecchi che c'erano già da prima? Allora sono diciamo apparecchi che in giro ci sono da qualche anno, no? Con diverse versioni che sono uscite. Questo dovrebbe essere l'ultimo della versione 2009, il V4, 2009 V4, però più o meno c'è qualche piccola differenza uno dall'altro, capito? E qua per esempio i menu sono su due tasti, invece magari in quello di Marco sono su tre. Lui mi diceva premendo menu brevemente apparecchio, poi giri i tasti, invece io quando premo apparecchio ma non fa niente, si va via. Quando premo i tasti, diciamo, faccio scorrere i tasti, non succede niente, perché li hanno raggruppate tutte le funzioni solo su due cose, su due lati, su due pulsanti, però poi per il resto i VAT, diciamo, e le tonalità della radio, eccetera, quelle sono grosso modo tutte uguali. Vai Gianni. Quanti VAT dà quell'apparecchio come massimo? Adesso te lo dico, in AM adesso io sto uscendo con 15 watt il massimo. Va bene, dai. Cioè, va bene. In modo laterale quanto la 50. Crivio. Penso che scalderà pure, però l'ho provato con una ventina di watt, ho collegato le Canarie poco fa e già andava bene, ho parlato per 5 minuti e non ha scaldato così tanto, ho capito, però non era al massimo. Ho capito, va bene, dai, se sei soddisfatto meglio così, esce bene comunque di radio. Adesso gli ho dato un minimo di ecco così. Sì, esatto, no, perché Marco mi spiegava come Marco e Giulio veramente non stavano indicando loro come inserire l'eco, capito? Infatti non sapevo se fosse una funzione eco, ecologica, magari per uscire con magari meno watt, ecco. Sì, sì, anche Mela non è molto ripetitiva, non so se si possa regolare diversamente, però questa funzione qua non è ripetitiva, ti dà non so che, diciamo, di preamplificazione. Sì, si può anche aumentare, però l'ho lasciato al minimo, così non dovrebbe creare molto disturbo. Dai, rilanciamo Giulio adesso. Ok Gianni, anch'io adesso l'ho inserito, vedi un po', anch'io l'ho inserito, ma sempre al minimo, e non, però volendo posso anche aumentare, dare precisione, e anche la tonalità, che c'è anche il comando per la tonalità, per cui va bene così, ma stamattina Luca mi ha detto che la posizione come la sto usando adesso va benissimo ed è chiarissimo, così confermi tu? Sì, confermo. Va bene perché non è molto forte, c'ha un minimo di eco, ma proprio minimo, va bene così, dai. Ok, sì, diciamo che sono simili, dai, sia il mio che quello del Carlo. La differenza sta nel fatto che quello ha un po' più di potenza e dunque però costa anche di più chiaramente. Io sinceramente l'avevo pagato, Carlo, 170 euro l'avevo pagato questo qui, un anno fa, esattamente un anno fa, anzi 11 mesi fa per esattezza. Oggi lo stesso apparecchio costa in certi negozi anche 225-226 e in certi altri può costare anche 215-210 anche. Ho notato tutti i negozi che c'è una leggera differenza di prezzo, Carlo. Sì, questo praticamente con le spese di spedizione era tutto compreso, 220, e me l'hanno già dato, diciamo, con la modifica fatta col computer, capito, per non stare a comprare cavetto eccetera, e mi è costato quello. Ho capito, tu l'hai espanso, no, io non ho espanso niente, io lo posso fare manualmente, ma non ho fatto nessuna espansione, per cui arrivi addirittura a canale 60, puoi arrivare nelle varie bande senza nessun problema, ma questo quando si passa in banda già mi è capito, i 10 metri in poche parole, per cui vabbè, no, io non l'ho mai provato, io non lo proverò mai, tanto lì non mi interessa, rimango sempre ai 27, così tranquillo e pacifico, e anche a 2 watt. Anzi, ti volevo chiedere un'altra cosa, io ho toccato adesso la parte finale, no? Anzi, non posso dire nemmeno che è tiepido, è appena, ma veramente, leggermente caldo nel senso tiepido, anche meno di tiepido. Prova tu da te come se è scaldato di più e dimmi com'è. Sì, è che stavo guardando anche un video che mi stanno mandando. Luca mi ha mandato anche il manuale in inglese, capito? In PDF, tu me lo guardo. Sì, adesso dovrò prendere confidenza bene di tutti questi comandi, però come mi ha detto Marco, premendo il tasto dei canali in fondo, infatti c'è scritto push, si attiva l'altro menu e sono in due raggruppamenti, invece con la funzione menu, se schiaccio a lungo mi dà l'altro menu, se schiaccio brevemente appare, però poi non fa niente, quindi è quello. Sì, io non l'ho mai programmato col computer, poi non c'ero nemmeno il cavetto, per cui non mi interessa nemmeno programmarlo, no? Perché si arriva a 60 canali, anziché a 40, a 60 canali per ogni banda si arriva, però va bene così, non c'è problema, avanti Gianni. Dai, vi devo salutare che è già tardi, mi ha fatto piacere ascoltarvi, dai, sono entrato, vi ho dato la benedizione oggi, ma stavo facendo altro, quindi ho acceso tardi, dai. Ci sentiamo magari dopo, se ci siete, verso le 7:30 l'attacco in macchina e così mi accompagnate. Ok, già, a dopo allora, se ci siamo, se coincide. Avanti, Carlo, ciao Gianni, tanto vai Carlo. Sì, ciao Gianni, già, ci sentiamo, tanto siamo qua. Io ancora mi trattengo una mezz'oretta circa e poi anche io devo uscire alle 7:30, per cui se va bene ci sentiamo. Nel caso ci sentiamo dopo le 8 quando rientrerò, perché devo andare salutare mia moglie. Niente, vai. Chi c'è? Marco. E io Gianni. Ciao, buon proseguimento e dopo se rientri. E che altro dire? Io ho messo al minimo perché qua scaldava, io perché questo l'usi a manetta è inutile metterlo a due parti, cioè, visto che ci sono i battusali, anche se siamo in città, però sai, zone limitrofe, un po' rotore magari arrivava meglio, eccetera. E cosa volevo dire? Ti è andata bene per il prezzo, Carlo, ti è andata bene perché ho visto anche 2,45 il prezzo più la spedizione, cioè dipende molto dal venditore che trovi, certi sono più esosi, diciamo, come prezzi, certi sono un po' più umani. Sì, esatto, sì, mi è andata bene, mi ho mandato adesso a Giulio che la vedrà dopo, diciamo, l'ordine che ho fatto, infatti c'è scritto CBCRT SS 9009 V4 espanso 24-30 mega con toni CT CSS DCS, c'è pure i toni, tra modifica spedizione tutto 228,99. Sì Carlo, sì, in certi punti è così, ma anche, ha ragione anche Marco, in certi altri è anche oltre 240, 250 tocca addirittura, per cui secondo il negozio, dai, secondo il negozio che lo vende, no, ripeto, io l'ho comprato un anno fa, circa 11 mesi per l'esattezza, 170, per cui, però oggi come oggi, sempre questa versione qua, è intorno ai 200, 210, anche 225 ho visto in certi negozi, tu lo sai, ogni commerciante c'è qua il prezzo per conto suo, no? È ovvio, è normale. Vai Marco. Sì, guarda, io quando possibile compravo da Media Globe, perché Media Globe faceva i prezzi migliori, soprattutto se l'apparecchio era la prima volta che lo vendevano, tipo prezzo di lancio, l'hai per loro. Infatti il presidente McKinley, che io credo di aver pagato a filo di 200, tipo 210, io ho visto un prezzo da un venditore che o è un errore, perché mi sembra talmente spropositato come prezzo, non mi sembrava proprio normale come prezzo. Adesso ve lo dico, allora, ecco qua, FLQ elettronica, io l'avrò pagato 210, fa che sia 220 con la spedizione, no? Allora, 349 euro, ma questi sono fuori di melone, cioè si prende un HF a quel punto. Vai Giulio. E perché tu non sei fuori di melone? Tirata. Tu lo sai benissimo, si fa il prezzo male, per cui ognuno vende come crede, poi naturalmente c'è la concorrenza che vende qualcosina di meno, proprio per cercare di venderne di più, per cui, ma ripeto, nonostante tutto, questo già da allora ad oggi sono aumentati oltre 50 euro, e non è poco, 50, anche 60 in certi negozi, per cui è tanto, non è poco, non è che ha aumentato 5-10 euro, ha aumentato 50-60 euro, quello è il problema, ma evidentemente si sono resi conto che questo va e allora hanno aumentato il prezzo per quel motivo lì, non lo so, non è certamente Putin che le ha fatto aumentare il prezzo. Vai Carlo. Sì, però è così. In alcuni siti, come diceva Marco, su HM Radio Shop, qualcosa del genere, la radio che ho io veniva 2,40 più spedizione, più se volevo l'espansione di banda 20 euro in più. Invece in quest'altro sito dove l'ho preso io, Technology Shop, praticamente mi hanno fatto l'espansione di banda gratis. Quindi alla fine 2,20 è costato, non è poi così tanto, però essendo anche l'ultima versione di radio, diciamo mi sembra giusto il prezzo, però ho visto che altri siti lo stanno vendendo anche 2,50, 2,60, capito? Ognuno fa il prezzo che vuole a questo punto, e noi utenti, diciamo, non ci rimane altro che andare alla ricerca se che troviamo da fare, capito? Come ho fatto io. Sì, io l'avevo ordinato da Amazon, giorni, in due giorni ce l'avevo, anzi anche di meno, un giorno e mezzo, per la verità, perché era stato ordinato intorno alle 10 di notte, è arrivato dopo un giorno e mezzo in tutto. Sì, sì, no, con Amazon non ci piove, arriva abbastanza veloce. Anche questo l'hanno spedito con Bartolini, però se faccio la consegna a casa impiega anche 4 giorni. Invece ho richiesto la consegna all'Ecco, sono dei negozi, no, che sono affiliati a Bartolini, e dopo 2 giorni mi è arrivato un messaggio, puoi ritirarlo, sono andato in via degli Astronauti qua vicino a casa, me lo sono ritirato, e quindi arriva anche il mio in 2 giorni, non è impiegato più di tanto. Meglio così, quando le cose arrivano velocemente fa solo piacere. Sì, anche quello è interessante, con la clausola anche che se per caso non sei soddisfatto entro 30 giorni lo puoi riferire, vengono, se lo riprendono, sempre parlando di Amazon, se lo riprendono e non paghi nemmeno un centesimo per spedito, perché vengono addirittura a casa, se lo ritirano, dopo che loro lo ricevono ti rimborsano subito i soldi nel conto corrente. Una bella organizzazione Amazon, secondo me. Vai Marco. Sì, Amazon, anch'io, se per caso c'è il rischio che non sia in casa, preferisco farlo arrivare lo stesso da un hub Amazon, lo danno lì, in questo caso un caffè, un bar, no? In via Savoia, Raffa Caffè, non so se Carlo lo conosce, e lì ritirano i pacchi Amazon, almeno posso uscire, non devo temere che il pacco venga lasciato sulle scale, perché certi corrieri lo fanno, non dico quello Amazon o chi lo consegna, però alcuni corrieri mollavano il pacco e tutto in mezzo al pianerottolo, cioè roba allucinante, e loro firmano a nome tuo e dicono consegnato, e tu non vedi niente, perdi il pacco, perdi i soldi, perdi tutto, capito? E poi se vai a risalire a chi ha fatto questo, non è come un muro di gomma, capito? Non riesci ad arrivare mai al corriere, proprio al nome della persona che ha consegnato il pacco, perché anche lì fanno un sacco di ostruzionismo, ecco. Va bene, ma Luca Flipper è rientrato. Luca, ci sei? Luca, ci sei? Va bene, prendete voi, dai. No, Luca sicuramente sta facendo qualcosa, prima mi ha mandato un video, stava mettendo a posto delle antenne, mi ha detto, e domani ci dobbiamo vedere, che me ne ha messo da parte una per la macchina, quindi sicuramente fuori, non è in impostazione radio. Vai Giulio. Sì, ne ha diverse, stavo aspettando, perché ha diverse frutte nere, per cui va bene così. Sì, vabbè, tu lo usi anche in macchina, io no, in macchina sono più di 20 anni che non l'ho messo, forse anche 25, per cui non sono interessato all'antenna della macchina, anzi devo dire di più, ce l'avevo l'antenna della macchina, anche di quelle buone, la famosissima PV500 l'avevo regalata poi, l'avevo regalata un paio d'anni fa. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, ho sentito un segnale sotto, perché o è propagazione o è locale. Avanti, chi vuole entrare? Cosa ti volevo dire, Carlo? Allora questo dovrebbe, telefono, riprendi Carlo. Sì. Ho detto prima, bussato Natalino. Buonasera Natalino, ben sentito. Buonasera, solo che mi trovate che sto cenando, vi ascolto. Eia, ciao Natali, buona cena, fai pure con calma. E dai da mangiare al cane che mi sta protestando. Ciao Natalino, ben entrato e buon appetito. Va bene così, non c'è problema, figurati. Va bene, anche fare l'ascolto è importante per chi ha passione per questo genere di ubi. Ascoltare non fai nessuno sforzo fisico e nemmeno vocale, perciò va bene lo stesso così. Avanti Carlo. Sì Giulio, sentivo quello che diceva Marco sui pacchi quando arrivano, sì anche io ultimamente preferisco farmeli arrivare all'hub, perché ti arriva il messaggio e ci passi quando io molte volte, anche andando a lavorare, mi fermo un attimino e me lo ritiro da coso, da come si chiama, Fredanieta, allo Shank, c'è il punto di ritiro, vai, inquadri il QR code che ti mandano, capito? E si apre lo sportello, ritiri e vai sicuro così. Oppure per esempio Bartolini adesso si è organizzato e ha creato questi Eco Point, si chiamano, e anziché spedirtelo a casa ti arriva l'Eco Point vicino. Quando stai facendo l'ordine inserisci tutto, insomma, il tuo indirizzo e poi ti esce sotto. Se vuoi che ti arrivi all'Eco Point vicino a te, ti dà tutta la lista, tu selezioni quello più vicino a te, capito? E così non hai problemi. Appena arriva all'Eco Point ti arriva il messaggio, da questo momento in poi puoi andare a ritirarlo. Così, insomma, sto facendo così e mi trovo bene. Vai Giulio. Ok Carlo, sì, ma certo. No, io vado direttamente a casa, così non porto ancora qua, già c'è sempre gente, non c'è problema, per cui va bene così. Abbiamo sempre il pasto, anche se l'Eco Point ce l'abbiamo qui vicino, non è che sia un po' distante, dove sono io, volendo potrei anche indirizzarlo lì, ma non è il caso, perché intanto a casa c'è sempre gente, perciò non è un problema. Marco, sei entrato? Marco, penso sia ancora al telefono, perché ha detto un attimino una telefonata, quindi si è spostato, vediamo se ha finito. E allora riprende Natalino, si è finito di cenare. Natalino, mezzo vinello anche, che ci sta a quest'ora. Già fatto. Di classe alle 7:30 devo andare a prenderla, infatti tra 5 minuti esco alle 7:15, devo andare prima era, adesso non so che via è quella, prima era in via Solari il liceo scientifico, adesso l'hanno spostato giù dove c'erano i geometri prima, capito? Non so che via sia quella, dove c'è quel palazzone alto lì verso Latte Dolce. Ok. La portante si è svegliata. Ma io non ne ho sentito portante. No, niente, non è un problema. Tanto più che devo chiudere, così mi sono già stancata. Casomai forse ci sentiamo un po' più tardi, ma non lo so, non lo so. Perché adesso fa un po' ci sarà anche il telegiornale, la televisione, dunque lo seguo come faccio tutti i giorni. E poi vedremo. A Giulio non c'è problema, grazie delle informazioni, della chiacchierata, già siamo qua, io rimango lo stesso un po' in ascolto fino a 7:15, diciamo, prima di uscire, ancora 5 minuti, poi sicuramente già riaccendo quando rientro, per me la cena è intorno alle 8:30, alle 9. Ok, ciao Carlo, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo. Ciao Natalino, ciao Marco, chiudo, dai, ciao. Ciao Giulio, grazie per le quattro chiacchiere, allora, ci sentiamo le brutte. Ciao Nicola. Allora, vediamo perché. Ciao Giulio, sei rientrato Marco? Eia, una telefonata rapida. E quindi, come siete, dove siete rimasti? No, siamo rimasti che praticamente stavamo parlando del lab per ritirare i pacchi, capito? Stavo chiacchierando di queste cose con Giulio, no? Che io mi sto trovando bene perché non devo stare a casa a ostaggio del corriere, adesso passa, dopo non passa. E secondo che ordine è, me lo faccio arrivare o all'hub di Amazon, allo Shan o da Sanit, oppure, capito, se è sono altri corrieri tipo Bartolini, ce l'ho qua dietro l'angolo, là per ritirarlo, e sono veramente comodi, questi centri di ritiro, perché non ti devi stressare per andare alla ricerca di niente, vai, ritiri quando ti arriva il messaggio ed è tutto più sicuro così, anziché rischiare che qualcuno ti porta il pacco da sotto casa, come hai detto tu, più di una volta me l'hanno lasciato sopra le cassette della posta, capito? Lì secondo che arriva se lo prende e non sa cosa c'è, magari qui se lo rivendono pure, capito? E tu rimani con un pugno di mosche in mano. Bene, io tra pochi minuti devo uscire, che devo andare a prendere mia moglie. Nel caso ci sentiamo più tardi, Marco, e saluto anche Natalino che è in ascolto, non so se ha finito di cenare. Devo uscire e quindi mi metto qualcosa addosso, esco e rientrerò tra una mezz'oretta circa. Grazie della chiacchierata, Marco, e delle informazioni che sicuramente mi sono tornate utili. Avrò modo di trovare delle altre funzioni e poi ti farò sapere. Ci sentiamo al prossimo collegamento se va bene. Un saluto a tutti quelli che sono in ascolto, oppure se c'è rimasto qualcuno. Ciao Luca, se ci senti, ci sentiamo domani. Buona serata a tutti. Ciao Carlo, dai, buon proseguimento di serata e ci sentiamo quando capita. Io sono molto, molto incostante a entrare in radio, mi piace più ascoltare, capito, a tempo perso, anche senza starci troppo attaccato, perché qua è tanto voi, mi chiamano in continuazione, quindi non fa fare niente, anche oggi è un miracolo, si è rimasto così un'oretta e mezza in radio. Ciao Natalino, poi per i saluti a Carlo. Ciao Carlo, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, avanti Marco. Prima che l'ascolto io. Ehi Luca, secondo te stai facendo roba antenne così, Luca è sempre in fermento, non riesce mai a fermarsi, sta sempre creando, facendo, beato lui che sa inventiva e savoir-faire pure. Davvero. Marco, ben saluto a nostra radio. Io ti sento bene, parla un po'. È un 14 che ho sistemato, così domani lo restituisco al padrone. Avevo un paio di danni, vedi un po' se va bene. Sì, sembra tutto bene, sembra qua. Vabbè, il baracchino c'è una timbrica un po' diversa dal solito, un altoparlante credo che sia di quelli sintetici, con la membrana di plastica, anziché di cartone, però ti sento bene. Vediamo cosa dice Natalino. Di cosa, Marco? A flipper, bene lo copi. Non stavo seguendo che c'era mia moglie che mi stava dicendo cosa, perché domani devo andare a fare gli esami del sangue, capito? Ehi Luca, comunque sì, niente, nessun difetto non ho riscontrato, poi passaggio per Natalino. Natale, il 14 è questo che ho riparato, sembra, io ho già un 2-3 ore acceso, sembra che stia andando bene. E infatti già sta andando bene, non c'è problema. Gatta. Beh, adesso commuto all'altro, al grande, mi date la differenza, ok? Un secondo che commuto. Prova, sì, non mi segna niente, talmente al minimo che non mi segna niente, sarà un watt, due. E con che apparecchio stai andando, Marco? Il CRT 9009. Marco? Sì, vai. Questo è il grande, quello già lo sai. Vabbè, la radio è più attenuata, diciamo, dai, più soft, molto più soft. Va bene. Vabbè. Un'altra marca pure, capito? Va bene, d'accordo. D'accordo anch'io, Ma chi che ce l'ha messa di questo? Dopo abbiamo fatto con Giulio, le prove. Allora senti la propagazione. Aspetta un attimo. Allora, 3. E 5, ok. No, stavo controllando i watt, dai. Marco, eia. Guarda, ti ho messo così. Troppo soft, così. Vedi un po'. Beh, troppo no, però è tranquilla, molto tranquilla come radio, capito? Non è spaccatimpali, va bene per chiacchierare anche di notte. Allora posso lasciare anche così. Sì, non è che... è soft, dai, capito. Troppo. Ah, Natalì, ti volevo mandare un link. Stavo andando a quella che piace a te. No? Però è la scheda nuova, è la scheda nuova, non è la versione che ho io. E io pensavo scheda nuova è quella che potrebbe dare qualche piccolo problema, però il prezzo è imbattibile. Ehi, vabbè, ma sei difettoso, che cazzo me ne vuoi? No, però non è che siano tutte difettose, diciamo che potrebbe capitarti quella difettosa, e ma puoi fare anche il reso. Tu entro tutto il tempo puoi fare il reso per le cose online, comprate online, capito? E vabbè, professore, ci racconti, non ho tempo da perdere, capito? Questo termine indica il cardine della... devo fare un sacco di cose, quindi non ne ho tempo da perdere mai. È usato per allentare che... ho da fare molto in questi giorni. Indaffarato per la salute, no? Ho trovato l'appuntamento per l'ecografia, così posso portare gli analisi del sangue, questa ecografia a Tiesi, che devo fare una visita di controllo. Capito, sono indaffarato. Eia. Vabbè, ma allora il link non te lo mando nemmeno, dai. Ma era per saperlo, per consigliarlo ad altri, a chi serviva. No, non mi interessa, dai. Pregatene. Uso questo se devo... La lamburda... ci ho pensato bene. Alla fin fine sono soldi buttati, Marco. Mi tengo quel che ho. Poi tra qualche giorno mi rientrerà il 44, che c'era l'encoder messo male, e me lo sono comprato nuovo. Mi è già arrivato e gliel'ho già consegnato alla persona. Quindi fra un po' mi rientra quello lì pure. Quindi problemi non ne dovrei avere. Ho capito, dai, va bene. Ma mi chiedo se davvero questo, adesso io la teoria è quella, è che sia con la scheda nuova, però credo di aver visto anche qualche foto, sembra più piccola della scheda normale, però è senza il l'NR, quelle cose, come si chiama? Quel DSP digitale, e senza quel DSP digitale. Noise reduction. Ripeti, Luca. Noise reduction. Il mio si chiama DNR, Digital Noise Reduction. Luca, troppo bassa adesso però, alza un po'. È veramente troppo bassa adesso. O stai parlando piano o distante. DNR. Sì, sì, comunque quello lì. Noise reduction, DNR, come. Questo è interno. Vabbè, questa è la versione senza, però il prezzo, cioè, non ci compri nemmeno un Alan 48 con quei soldi, neanche un Alan 48, un misero Alan 48. Ehi, vabbè, dai, già c'ho il 3009 per parlare qua, poi se devo andare su, già c'ho questo, insomma, no problem. E comunque questi ti fregano anche per la programmazione. Cioè, uno dice c'ho il cavetto, uso il cavetto che io avevo già e uso il programma che ho già, invece no, perché siccome gli hanno modificato alcune funzioni, gli hanno arricchito di varie funzioni, ci vuole il programma di software di programmazione suo, quello giusto, se no non andi a lungo. Se no non ti compaiono quelle funzioni che non vuoi programmarlo da computer, capito? Ok, vabbè, questi non c'è bisogno di nessun software, capito? Questi sono pronti ad andare, anzi questo me lo uso a ricevere, e l'altro me lo uso per la banda laterale, che quello fa chiazzola. Marco, Ehi, sto scendo bene, sì. Adesso è molto più forte. No, prima era, o stavi parlando piano, eri lontano, non lo so. Allora si chiama il noise reduction, il mio si chiama DNR qua nella radio, DNR, digital noise reduction. Sì, quello lì, perché adesso questi apparecchi qua tipo il 6009, 7009, 9009 li stanno vendendo nelle ultime versioni sia senza il noise reduction sia con, c'è proprio una la piazzola nel circuito stampato e in certi viene lasciato bianco senza mettere il chip, diciamo, e in certi è montato il chip, quello chiamano NRC, ha un nome particolare, praticamente è un DSP che proprio elabora digitalmente l'audio e ti elimina la maggior parte del fruscio di fondo, però ho notato che più basso il segnale, quando il segnale è proprio in mezzo al QRM, basso proprio, l'effetto è tipo robotico, capito? Invece più forte il segnale, più è limpida la ricezione. Vai Marco, devo parlare? Che sto facendo il video, com'è la differenza? Però ci vuole un segnale basso per mettere il noise reduction lì, cioè per far vedere l'effetto, ma ho capito cosa ti ho detto. Praticamente anziché fare apparati nuovi, dopo vari anni, stanno rifacendo questi stessi apparati con questo microchip che elabora digitalmente il segnale audio e lo pulisce. Guardati il video, deve essere proprio la differenza, altro che... Ma non è arrivato il video, l'hai mandato a me. Qua c'è una radio, c'è scritto meno ne vuoi e più te ne importa. Ah. No, l'altro sta arrivando, aspetta, caricando. Cappa. No, infatti ho detto, ma non ce n'è video qua, ho cliccato in una foto. Ok. Eccolo. Sta arrivando. Adesso me l'ascolto. Naturalmente conta che se lo stai facendo su di me, altro che l'ascolto. Dai. Sì, solo 9:10 arrivo, che cavolo. No, vabbè, c'avevo l'impostazione a 1, dipende da come lo metto. Vai, parla. Ho notato che la incupisce leggermente la modulazione, che sai cos'è il segnale mio, va bene se il segnale mezzo al QRM, però con il segnale oltre il 9, diciamo è superfluo metterlo, no? Aspetta, sto andando nel video. Sì, infatti, ma siamo anche comodo. Vabbè, nelle bande HF, è una figata, guarda. No, mi ha dato un natalino, devi un natalino. Michele. È andato in neghi su, si silenzia di brutto. Diciamo che c'è questo. Che voce di chicchia che ho. Ma no, vabbè, lì è il parametrico dell'equalizzatore qua anche, capito? Sono io che faccio, posso fare alti, bassi, capito, tramite la radio. No, vabbè, l'equalizzatore, aspetta che abbasso, l'equalizzatore fino a un certo punto, però la mia voce è di chicchia, cioè a me non piace la mia voce, assolutamente, men che meno in radio. L'hai visto l'altro video? Sì, l'ho aperto, quando stavo dicendo appunto del segnale più alto, dai. Quando ho detto che si incupisce, ecco. Se va bene se il segnale mangia un QRM, però... tutto capito, così è. Ed è così che della spaccò. Lo vedi? Mannaggia, la pazza. Dai. No, scusate, io devo bloccare devo bloccare la radio, perché qua se no mi vado sul canale sotto, sul canale inferiore, sul 9. Ho fatto contatto il PTT col pulsante down, cambia di canale senza io voglia, dai, lo devo bloccare, un piccolo difetto è questo. Beh, intanto sta creando Natalino, chiudo anch'io, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao. Vega, che ora abbiamo fatto? 7:30, se l'orologio è giusto, 7:30, ok, ciao Natalino, se sta chiudendo. Idem con patate Luca, e sentiamo quando capita, ok? Buona serata a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao Luca, anche a te, alle due. ciao ciao, alla prossima. Hanno chiuso adesso, Carlo? Sì, Marco, avevi ragione. Premendo menu brevemente appare la F e poi devo non girare ma schiacciare e mi dà l'altro menu. Ah, ok. Allora siamo lì, dai, almeno come... Sì, è vero, premere F, poi premere mano per i canali, poi girando selezioni la funzione, ripremendo, diciamo, modifichi la cosa scelta, eccetera. Sì, no, dicevo, Luca ha chiuso adesso, Natalino ha chiuso adesso, io stavo bevendo acqua qui. Oh, guarda, potrebbe rientrare Gianni Lopirunghi, adesso che entra, ha detto che entrava dalla macchina verso quest'ora. Io faccio un po' di pausa, un po'. E così vediamo stanotte cosa preparare per la cena e che film ci sono in TV, se no me ne sia alguno dei miei, dai. Allora, quelle funzioni lì attivabili in quel modo sono, diciamo, cose che a noi CB non interessano molto, sono più per altre cose, più per altro, là. Sì, sì, ho capito, grazie comunque Marco, poi avevo avuto modo di provare, niente, adesso sono rientrato, mi sono ricordato di provare, niente, anche io rimango in ascolto che sistema alcune cose, nel caso ci sentiamo, grazie di tutto nuovamente, ciao, alle prossime. Ciao Carlo, ciao anche agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, 10, cambio. Hola. Se vai già. Beh, manco male uno vento. Oh, yeah. E poco fa ci avrei voluto rimanere, ma dovevo andare a portare il cane, quindi me ne sono dovuto andare. C'era un bel QSO poco fa. Già, io sono in piedi dalle 5 alle 10. Sono diventato poco fa a casa, ero a Porto Cervo. Vacanze c'è di questo. Ma gita di piace? No, un lavoretto. Ma dove? Il ristorante? No. Oh. Calo. E adesso mi stanno cercando in quella zona lì per lavapiatti, camerini. Le 10:30, 11 si è messa in moto tutto quanto, poi mi ha detto con la pasta al forno e mi ha distrutto. Quello già può essere, se era a casa specialmente. No, casa non è a casa, sicuramente era una frittella di merda. vabbè dai. Il modium, oppure cosa ti posso dire? Basta per prendere una fascia di modium, ti lo fa passare. No, ma sono a posto già. Come si dice? Ma male siamo andati al bar. Meno male. Cioè, sto subito a primaghi su. E mi fermo, ma dove sono stati studi? Aspetta un attimo, ho detto, posso entrare? Dove è il bagno? Guarda, è lì dietro. Cazzo già. Dove è fatto la faccia? Guarda, stavo crepando. Infatti ho detto, se io non entro in bagno, durante il viaggio io muoio. Credi, muoio da dolore. Ma non male poi che mi è passato, dai. Vabbè. Una volta che vai in bagno poi ti passo. Certo, ma la pantalona era calda, che mi mangiata, che avevo un po' di fame, tu poi sono mangiata le due. Le due, no? Tra la cosa da caricare i ferri, e qua, è tutto qua, da arrivare a Olbia, da Fondo Cevo a Olbia, sono fatta le due. Perciò, vero che vabbè, salito io un bagno, la volta con un telefono dovevo andare in via. Forse è quello, boh. Che cazzo adesso? Non lo so. vabbè, niente, no. Che ci vuoi fare? Sono a pezzi, qua. Giusto mi lascio, mi faccio un salto, andare a prendermi queste due pizzette e poi me ne rientro a casa. Ma lavoro di muratura è fatto? No, roba di elettronica. Ah, cavagavo. Quindi non era pesante. Pare che mi hanno taggato, controlla il mio tag di Facebook. E adesso sto guidando, sono in macchina. Dove sei già? A Sant'Orsola. Bene, mi ascolti, sì? Sì, sì, e tu? Benissimo. Sono a Sant'Orsola e sto andando verso l'incrocio della morte, dai. Ma Porto Torres? Porto Torres è strada di Pitriazzi. Ma fate un giro? No, sto andando a prendere la mia compagna. Ah, ok. Che ragazza, che a notte esce dal lavoro, che a Robbiano. Oh, però guardate, non funge. E adesso sono al passaggio a livello di Sant'Orsola. Sì, ci arrivi benissimo già, no? L'antenna va bene, l'ultima antenna piccola e fa il suo dovere. Infatti, insomma, ha ragione, si staccava sempre. Con questa qua ho camminato, ho provato anche in velocità, non si stacca manco per le palle. Oh. Aveva una calamità forte. La calamità tiene tre volte più dell'altra, è più piccola ma tiene di più dell'altra che è larga. Posso immaginare. È il magnete che è più potente, capito? E gare Gisù, gare. Emanuele, l'hai sentito quello che ha detto la padre Duttu? No. Mi è sembrato Emanuele, ma non lo so sicuro, perché era basso. Ha detto la padre Duttu, così hanno due da poi accolinire la roba. E adesso, come ti hanno detto questo, sono arrivato agli punti. Sempre forte, 9 più 20. Che bagara, che bagara. Adesso faccio una strada in campagna che mi porta verso il bivio sotto i Pitriazzi. Chi è arrivo girifo? Aspetta un attimo, devo dare la pastiglia a mamma già. Ehi, vai. Carlo, tu sì? Ciao Gianni, dove sei? Sono arrivato quasi all'incrocio della morte. Sono quasi arrivato lì. Forte e chiaro qua, Santiago 9, Radio Super 5. Ciao Carlo. Kappa. Ciao Luca. E allora, rientrato qua, già mangiato hai? No, negativo, no, sono rientrato da poco e niente, mi ancora provando la radio. Le mille funzioni che ha, eccetera. Adesso ho collegato la prolunga dell'altra radio che avevo, sembra che stia andando bene, perché era sempre a 6 in. Sono in manovra. Aspetta, forse era entrato Luca che mi ha salutato. E tu Luca? Boh, mi era sembrato Luca che è entrato a salutare già. Non so che ci fosse qui oltre a te. No, c'eravamo solo io e Luca, dai. Ho provato a accendere e non non c'era nessuno, poi è entrato Luca, capito? È usando sempre l'antenna nuova. Kappa, adesso in questo momento sono arrivato, dai. Ehi, già, ci sentiamo allora, dai. No, non c'è problema, tanto devo aspettare, sono arrivato prima. Devo aspettare una decina di minuti, posso trattenermi e posso anche ritornare a Sassari senza problemi. Ah, Kappa, pensavo che fossi arrivato a casa. No, sono arrivato a prendere Arena e poi devo ritornare verso casa. Bene, Meda. Come mi ascolti da qua, più basso? No, sempre bene, ti sento già. Hai fatto male a non ordinartela questa antenna, già che la stavi ordinando potevi ordinartela anche tu. E adesso vedo, forse è come voglio io. Ho capito, domani mi ritiro la radio che ho portato in riparazione. Albino ci ha cambiato il pulsante d'accensione, un mago quel cristiano, dove mette mano insomma riesce ad aggiustare. Ma l'ha trovato originale il pezzo, Carlo, interrogativo? No, non l'ha trovato originale, non si trova, ma ne ha trovato uno identico, roba di pezzi che ha da altre radio, identico, mi ha dato il vecchio, mi ha fatto vedere il nuovo, praticamente l'ha dovuto risaldare dalla piazza, capito? E poi ci ha risaldato l'altro. Vabbè, l'interessante è che abbia risolto, che fosse, ma io lo immaginavo che era una cavolata, ogni tanto vuol dire che l'apparecchio non era partito. Esatto, anche perché non è che lo stavo neanche caricando, chissà di che, stavo uscendo sempre con 4 watt, per cui l'accendi spegni, che sono tastini fatti, diciamo, dei materiali che non durano in eterno. Poi i tasti della luce, no? Quando tu vai a accendere e spegnere, alla fine poi parte la molla e si rompono. È così. Purtroppo è un metodo strano, era meglio quello tipo col potenziometro che giravi e si accendeva. Infatti. Comunque niente, adesso ho provato la prolunga dell'altra radio, perché avevo trovato una prolunga originale per l'altra radio e il microfono, no. Però essendo a 2 pin i collegamenti sono gli stessi, quindi sto provando questo e va bene. Questo che microfono è, non è l'originale? Sì, questo è originale della radio CRT, questa 9009. E io quello che mi hai venduto tu ne ho fatto il ponte e me l'ho modificato. E sta andando bene già. Benissimo, va molto bene, esce anche forte. Lo immagino, no? Diciamo che era quasi nuovo quel microfono, però per queste radio che uso io non vanno bene quei microfoni lì, capito? Con le radio non hanno bisogno di amplificato, sono già spinte già di per sé, come questa che sto usando io c'ho il microfono normale adesso, c'è praticamente il top gown che tu lo inserisci ed è come un processore. Esatto. No, questa radio che ho preso, la nuova, è, diciamo, c'ha un sacco di funzioni in più rispetto all'altra, ha anche più potenza se dovesse servire, eccetera. E già va bene, già sono contento dell'acquisto, per adesso sto ancora insomma provandola, ma diciamo dai primi 2 giorni che la sto usando mi sembra che vada più che bene. Una te la metti in macchina, quella che aggiusti te la metti in macchina, così esci più forte, che c'ha più watt quella. Sì, esatto, infatti farò così, gli dovrò trovare un'altra sistemazione e così quella la metto in macchina, giusto per usarle tutte e due, e c'ha anche la banda laterale quella là. Già vanno bene quelle radio. L'unica cosa è quando ti porti a aggiustare, che poi è un casino, perché qua non c'è nessuno che le aggiusta, che hanno microcircuiti dove ci vogliono delle attrezzature speciali per poterle aggiustare. Lo so, infatti Albino gliel'ho detto, se tu fossi stato a Sassari avresti lavorato, ma lui mi ha detto che comunque da lui passano un sacco di camionisti, perché ormai lo conoscono, capito? Si è fatto una, un una nomea, diciamo, sulla 27, e per cui molti camionisti si fanno il tannaramo quando uno ha un problema e gli dicono portala al bene. Infatti lui ha uno scaffale pieno di radio vecchie, radio che magari non si possono più aggiustare, ma a pezzi di tutti i tipi, dalle manopoline ai pulsanti, tasti, di tutto di più, microfoni e di quelli che non butta niente, e tutto può servire, capito? Però a lui serve, e dice che lui è nella media, diciamo, una radio al giorno la mette a posto. Sì, oltre che lui fa il camionista, non è il suo lavoro, quello è un hobby solo. Esatto, infatti molte volte quando lo chiami non ti risponde, mi dice no, perché stavo guidando e a volte non ho la radio là, eccetera, e anche se mi chiamano non rispondo, perché molte volte c'è in fretta e si dimentica anche di prendere la radio, capito? E niente, al telefono mi ha detto che quando voglio passare ci posso passare mattina o sera, ma ha detto chiamami prima, perché a volte esco e non è sempre che lo trovi a casa, capito? Solitamente di sera dopo le 6 è sempre a casa, però molte volte c'è anche il dopo pranzo. Quello Albino fa anche modifiche agli apparati, fa delle belle modifiche, mette camera eco, tutta questa roba qua. Per quello i camionisti lo conosco, poi lui è camionista, quindi ci ha fatto la fama. E quante ne hanno portato di baracchini anche da Sassari. C'era Gigi Vulcano, che era camionista, adesso vabbè è andato in pensione, ma ci faceva la cortesia lui di portare Albino quando passava lì, se li lasciava, capito? Esatto. E lui lavora così, a volte guardi sul tavolo di lavoro, ne ha 3 o 4 di radio aperte che magari sta mettendo a posto, sta magari aspettando un pezzo per fare una modifica, capito? Sì. Le piace, capito? Le piace, lo fa proprio con passione. Ok. E niente, quindi adesso vediamo già. Io ti devo lasciare perché mi stanno chiamando dall'altra stanza e ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Va bene Carlo, dai, buona carica quando la fai. Salutoni, alle prossime. Ciao, grazie per il consiglio. Ehi, ciao Gianni, tante cose belle. Ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao, buona serata. Ciao Carlo. Ciao. Luca, ci sei?